questa seconda prefazione in aggiunta a quella originale di Lampap e voleva spiegare un po' le motivazioni che hanno portato alla traduzione del volume dall'inglese all'italiano e in particolare quello che cerco di dire in questa piccola sezione del libro è che è un libro importante che mancava nel panorama italiano soprattutto perché permette di guardare alla questione israelo-palestinese attraverso le lenti delle bugie, delle mitologie che sono state proposte da Israele e che purtroppo oggi come oggi non vengono più confutate e questo è stato principalmente evidente l'anno scorso quando abbiamo visto che soprattutto i media italiani, quindi non solo i media internazionali, erano completamente di parte e non hanno fornito alcun tipo di contraddittorio per quanto riguardava il conflitto e i bombardamenti su Gaza, come la repressione della polizia a Gerusalemme durante gli sfratti di Sheikh Jarrah. Nel libro ci sono appunto contenuti questi 10 miti che vengono sfatati, ce ne sono alcuni storici e tra virgolette anche famosi, come l'equiparazione tra antisemitismo e antisionismo, ma anche altri che magari, come dire, le persone conoscono meno. Puoi farci una velocissima panoramica che poi ovviamente approfondiremo nella presentazione? La struttura del libro per me è molto efficace perché parte da questi miti storici, come ad esempio che la Palestina fosse terra di nessuno, quindi che non fosse abitata, ricca, o comunque con un popolo che già viveva in questo territorio, che va di pari passo con il mito secondo il quale gli ebrei erano invece un popolo senza terra, che quindi va a giustificare l'elemento nazionalista del sionismo come poi lo conosciamo noi adesso. E questo è allo stesso tempo legato all'altro mito che, come dicevi esattamente tu, che è quello per cui sionismo e ebraismo sono la stessa cosa, che ha il rischio enorme poi di equiparare antisionismo e antisemitismo, cosa che Israele fa costantemente, fra l'altro. Quindi ci sono questi miti, diciamo, che hanno origini un po' più storiche, secondo me comunque sono molto interessanti perché ci spiegano come siamo arrivati al momento attuale, e dall'altro lato invece c'è una mitologia che si riferisce a questioni più recenti, come ad esempio Oslo, gli accordi di Oslo, ma soprattutto il processo di pace, tra virgolette, perché appunto si basava sul presupposto errato che le due parti potessero essere considerate simmetriche sullo stesso livello, che avessero uguali dotazioni di potere. Questo ovviamente non era il caso. Ugualmente cerca di sfatare la mitologia di Gaza come covo di terroristi e tutta un'altra serie di cose. Quel capitolo a sua volta ha 3 miti all'interno della mitologia di Gaza e infine l'ultimo mito del presente è quello invece in relazione alla soluzione a 2 stati come unica soluzione possibile. Ilan Pappe cerca di andare oltre e valutare alternative dato anche purtroppo la fattualità dell'espansione di Israele, delle colonie nei territori occupati e della situazione molto critica di Gerusalemme. E in particolare, insomma, abbiamo dato questa panoramica su quella che è la propaganda israeliana, in qualche modo questo, come dire, intossica anche la narrazione e ostacola una soluzione del conflitto? Sì, come possiamo avere pace senza giustizia, viene detto, no? Ecco, io penso che anche in questo caso questo ne sia assolutamente un esempio. È impossibile pensare di avere una risoluzione quando non vengono in alcun modo affrontate le cause e i fatti, anche gli errori che hanno portato allo status quo per come lo conosciamo adesso. Indubbiamente, infatti poi Lampap conclude il libro dicendo proprio questo, è necessario affrontare queste mitologie, smontare queste mitologie per poi poter andare avanti.